Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You know, I was on this plane once, and I'm sitting there, and captain gets on, he does this whole, you know, we'll be cruising at 35,000 feet, but then he puts the mic down, he forgets to turn it off. Mm-hmm. And so he turns to the co-pilot, and he's like, you know, all I could use right now is a fucking blowjob and a cup of coffee. So the stewardess fucking goes bombing up from the back of the plane to tell him that the microphone's still on. This guy in the back of the plane's like, hey, hon, don't forget the coffee. La quarta parte di Eclettica, che si è aperta con il nuovo che ci stiamo ascoltando da qualche settimana da parte della band di Athens, Georgia, di nome Off Montreal. Polyvinyl Records è il nome dell'etichetta, invece She's a Rejector è il titolo del brano che ci siamo ascoltati appunto in apertura. Per lasciare lo spazio ad uno dei brani che sono stati oggetto di pillola durante la settimana, una delle tante pillole italiane della settimana, ovvero sia il nuovo, a quasi 3 anni di distanza dall'omonimo album di debutto, dei Mercy Miss Monroe, band legata a doppio filo a Marilyn Monroe, tanto che nel primo disco c'era un un brano che era intitolato in onore di Marilyn Monroe, ce n'è anche uno all'interno di questo secondo disco. Noi però ce ne ascoltiamo un altro, anche se sempre diciamo in area Marilyn Monroe, lo capirete dal titolo del brano appena ve lo dirò. L'album si chiama Sun Minor Crimes, esce per la Ghost Records, la data precisa di uscita è il 9 di marzo, e noi ci ascoltiamo la traccia che lo apre, ovvero sia Gang of Blondes. Da allora, anche anni e anni dopo che gli eventi si furono conclusi e mai dimenticati, ogni volta che guardava al mare e vedeva la schiuma di un'onda spaccarsi su uno scoglio e sentiva le gocce che si schiacciavano sul vetro della finestra a cui appoggiava la fronte, ogni volta, ovunque si trovasse, gli tornava in mente la notte che arrivò sull'isola. Era così buio quella notte che il cielo e il mare erano la stessa cosa, talmente neri e stretti e lucidi, che sembrava di stare sospesi nel vuoto. E se serrava le palpebre, le copriva con la mano e premeva, forte, lo spazio che vedeva dietro gli occhi, cieco come quello in cui si formano i pensieri, era nero, come quel mare e quel cielo, infinito e nero. Questo era l'incipit dell'Isola dell'Angelo Caduto, di Carlo Lucarelli. Je ne suis pas ce que je suis. j'ai bien le droit aussi de railler, dérailler, épuiser toutes mes envies. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'oublie, je bois l'oubli, mais qu'est-ce qui m'arrive? Nel provare a dimenticare faccio finta che qualcosa ti è rimasto e scappo solo per poi ritornare. Schivo i colpi dei ricordi per non farmi male, ma nel provare a dimenticare faccio finta che qualcosa ti è rimasto di me. Date last week. How'd it go? It was good. You going out again? I don't know. Why not? I haven't called her. Christ, you're an amateur. I know what I'm doing. Yeah. Don't worry about me. I know what I'm doing. Yeah, but this girl's like, you know, beautiful. She's smart. She's fun. She's different from most of the girls I've been with. So call her up, Romeo. Why? So I can realize she's not that smart, that she's fucking boring? You know, I mean, you don't... This girl's like fucking perfect right now. I don't want to ruin that. Maybe you're perfect right now. Maybe you don't want to ruin that. But I think that's a super philosophy, Will. That way you can go through your entire life without ever having to really know anybody. I found something crying, it was my soul. I fed it milk so it wouldn't grow old. We crossed the borderline at dawn and woke up in a field of corn. The farmer told me I was late. I better start oiling the gate. Said that those who rush shall fall, but I don't wanna wait for waves. No, I don't wanna wait alone. Abby, let's not wait. Let's cross the river now. We could sit for years staring at our fears. Oh, they're such pretty things. They're so cute, but our dreams are all we really need to grow. I found something dying, it was my life. vediamo di dare un po' di ordine alla musica, ma anche alla geografia di Eclettica, perché siamo partiti nell'elenco delle canzoni che ancora non ho avuto modo di presentare con i francesi Holden, siamo poi passati all'italiano Giuliano Dottori con il brano dal titolo Alibi, dal suo esordio Lucida, per passare poi da Londra, da cui provengono i Guillemots, che ci siamo appena ascoltati con il brano dal titolo Any Let's No Wait. Ed ora ci trasferiamo in Austria, infatti è arrivato il momento, i più attenti già avranno capito, di Max Min, M minuscola per Max, M maiuscola per Min. Questa è Easy Song. Thank you. siamo arrivati alla chiusura per l'intera settimana di Eclettica. Ci siamo arrivati assieme a Matt Elliott con il suo ultimo album Failing Songs, che già era passato qualche settimana fa all'interno delle playlist di questa trasmissione. Matt Elliott, che ha intrapreso un percorso atipico partendo con lo pseudonimo Third Eye Foundation, magari qualcuno se lo ricorda, una figura emblematica della scena elettronica inglese. Però fin dai suoi primi album Matt Elliott si accosta a composizioni più folk, abbandonando mano a mano nel tempo laptop apparecchi, per poi arrivare a questo Failing Songs con strumenti più tradizionali come chitarra, pianoforte e violino. Noi ci siamo ascoltati il brano dal titolo Desamparado, che chiude quindi qui tutta la settimana di Eclettica, che è stata caratterizzata dai libri di Carlo Lucarelli e dagli spezzoni cinematografici di Good Will Hunting, film che in Italia, se non ricordo male, era stato tradotto come Genio Ribelle. Giulio Caperdoni vi ricorda Giulio a radiorockfm.com e myspace.com/eclettica. E a questo punto non mi rimane altro che dirvi il solito. Alla prossima!